Graziella, 4-3 luglio 19:37. E ancora sulla colonia, ci stavi dicendo della triste vita delle suore. Sì, vabbè, era una considerazione che le suore facevano una vita peggio della nostra, perché almeno 2 turni li toccavano tutta estate, 24 ore su 24, con dei bambini sudicissimi che avranno chissà urlato quanto in quelle condizioni in cui eravamo, dormivano pure con noi in un letto racchiuso dentro un telo bianco e quindi credo che ci Cioè, un telo odiavano. bianco perché voi non dovevate Noi non vederle. dovevamo vedere suore, io non so se dormissero anche con la cuffia in testa, perché le abbiamo viste senza velo, ma sempre con la cuffia quando spiavamo. Cioè, vale a dire, toglievano il velo, ma poi c'avevano tutta una cuffia bianca, tutta Chissà come qua. E puzzavano loro, tra l'altro. perché le spiavate? Perché era una cosa di vedere le suore senza velo, capito? Cioè, una che non deve mai togliere il velo, e quindi era una primizia vedere una suora senza velo. Come è fatta? Pensavamo di vedere, chissà, che aveva, forse delle corna, forse delle, non lo so. Però vedere la suora senza velo era una curiosità innata ai bambini, no? Senti, dicevi della doccia finale, Sì, appunto. perché appunto si puzzava, ma non potevano rimandarci a casa in quelle condizioni. Tanto più che poi c'era il periodo in cui si entrava anche in acqua e non erano previste docce, io docce non ne ho mai viste. Quindi ti immagini come si sarà stati. Quindi c'era la doccia che era così composta. C'era una suora, ma era una suora speciale, non era la nostra, sembrava una che venisse del mestiere, ecco, che veniva tutta bardata con un grembiulone enorme di gomma. Di gomma, dei guanti di gomma, secondo me aveva anche il velo di gomma, forse no. E noi bambini venivamo perché non si poteva denudarsi, bisognava andare col costume, quindi perché assolutamente ci si metteva in fila. Questa aveva uno spazzolone, secondo me tipo quello che noi ora usiamo per i piatti, eh? Uno spazzolone tipo quello per gli animali, dove ogni bambina veniva presa, insaponata in testa sotto quest'acqua fredda e passata questa, ma al tempo non c'era la plastica, quindi le spazzole erano proprio quelle di crin, Di cavallo, sì, sì. quella roba lì dura che ti faceva dei segni rossi, ti tirava un po' sul costume qua, ma guardando da un'altra parte, Ah, quindi perché te facevi la doccia veramente in col costume. costume, perché non si poteva denudarsi del tutto, quindi con conciate così ti dava una ripassata in testa e tutto, che poi tu eri un po' scorticata, è il motivo per cui non la facevano l'ultimo giorno. Facevano 3-4 giorni prima perché dovevi un po' ripigliare, guarire dalle scorticature, perché poi eri tutta vessata dappertutto, e venivi mandata a casa così. Pensavi Bello. meno, eri freschissima dopo, ti Ma immagini. quando sei andata a casa ovviamente non raccontavi delle... Ma non avevo, cioè, secondo me, a parte l'ultimo anno, che a quel punto avevo un po' più di consapevolezza, quindi raccontavo, eccetera, intanto non mi davano molta retta, ma prima, cioè, non ero l'unica a essere sottoposta a questa specie di tortura e non ero consapevole che fosse una tortura. Cioè, era una cosa normale. Che succede, Micia? No, che c'è anche la gatta psicopatica, sì, deve essersi spaventata per qualcosa. Poverina. Forse ha da mangiare, ora guardo se ce n'ha. Quindi, cioè sì, non ero consapevole, tutte le bambine subivano questa sorte. E quindi, ovviamente, questa era la vita. Non, cioè, io credo che ci sia un livello di violenza, come era in questo caso, cioè che tu non la leggi come violenza, la leggi sì, certo, ma la vita. Si è fatta così. Sì, cioè la piscina l'ho capito dopo che la piscina era un'altra cosa. Per me la piscina era quella cosa lì, come se fosse una struttura, una struttura. Non è detto che quello fosse l'unico uso, ma non mi sono mai chiesta altri usi. Era una roba che c'era solo lì, però non l'avevo da altre parti, non c'era la piscina. Quindi poi magari orecchi la piscina con una cosa che c'entra acqua, ma per me c'entrava perché era mare. Ovviamente questo magari quando avevo 7 anni, può essere che quando ne avevo 9 o 10 ho cominciato a capire che magari certe cose non tornavano, ma è così, era così anche a scuola, no? Come io avevo la maestra che quinta elementare, che è quella che faceva i punti di lode, che era considerata bravissima maestra, lo era pure. E lei era un'appassionata di musica e faceva il coro della scuola. Quindi fin dalla prima elementare i bambini venivano, c'era un certo giorno, prima di Natale normalmente, perché dopo c'era da fare lo spettacolo di Natale, venivano provati a fare, vedere se sono intonati. Io ero sempre scartata, ovviamente, perché io sono stonata, e quindi questo ti faceva do, do, e io facevo do, e quindi via, io ero sempre quelle. E prendeva quelle per fare il coro. Questa maestra mi toccò in quinta elementare, quindi io ero abituata che tanto ormai mi scartano, però vado. Quell'anno lì andavo bene perché ero della sua classe, salvo poi prendermi di sparte a dire però tu muovi solo la bocca, però non stava bene che quelle della sua classe non fossero nel coro. Cioè proprio anche quello, guarda che era roba stramba, ma io non lo trovavo strambo. Cioè, perché si era così. Sì, ma sai quante cose ora forse noi nel mondo ci sono strambe e non capiamo che sono strambe? No, certo, le puoi vedere solo con gli occhi di un'altra epoca storica. Sì, cioè, sì, per me è anche di un'altra età tua, di un'altra maturità. Sì. Per un bambino, quante gliene fa il bambino? E lo trova, cioè, non ha neanche il concetto dello strano. Cioè, lo strano tu ce l'hai quando hai una consuetudine, ma se tu una consuetudine non ce l'hai, è strano quello che non rientra in quella piccola consuetudine. Quindi per me sarebbe stato strano che in piscina ha fatto il bagno e mi sarei immaginato una doccia messa dentro la piscina dove uno fa il bagno, perché quello sarebbe stato strano per me. È normale stare lì nella spianata. E comunque sei andata a questa colonia fino, diciamo, all'estate tra la quinta elementare e la prima media? Sì, penso di sì. Sì, 11 anni, sì. E com'è stato poi il passaggio alle medie? Possiamo passare a questo? Passaggio alle medie? Te eri intanto alle medie, c'era cioè ormai la media unica da poco, no? Dal 62. Quindi te... Sì, cioè io sai, cioè tu dici da poco, nella mia percezione già da 3-4 anni, 3 anni, 63, quindi era già una cosa che non era più in discussione. Però c'era, secondo me, ancora un retaggio, tanto che sempre per la storia che io ero, facevo parte del boom generazionale, non c'erano le aule. Quindi, siccome prima c'erano le medie, e a Recuaro credo che forse le medie manco c'erano, c'era stato l'avviamento, avevano fatto le scuole medie, ma sbagliando i numeri. Quindi ci stava un tot di classi. Quindi cosa avevano fatto? Che tipo le A e le B erano in questa nuova scuola media, poi delle classi più sfigate gli è capitato di andare, tra l'altro, all'altro capo del paese, in una casa che aveva preso in affitto comune, quindi su dei locali, tra l'altro, totalmente inidonei. Cioè delle stanzette piccole dove ammassavano questi banchetti senza riscaldamento, quindi mettevano una stufa a legna e spesso noi ci dovevamo portare la legna. Perché tu eri in queste sfigate? Io capitai quelle sfigate, ci è rimasto tanto male, perché probabilmente, cioè, sono andati avanti dopo, c'erano i raccomandati, cioè quelli comunque che conoscevano, papà, io che ero la solita figlia di nessuno, mi hanno messo in questa. Che in più per me ha avuto anche un altro grosso handicap, erano solo femminili, non c'erano maschi, evidentemente c'erano molte più ragazze, che ci sta. E quindi dall'altra parte avevano fatto qualche classe maschile e delle classi miste, che era quella da cui io provenivo, però l'hanno un po' rimpallate, secondo me molto, cioè c'era una grossa separazione di classe sociale, lo vedo ora e forse lo vedevo già allora, perché in prima media io ho iniziato a capire tante cose, cioè ho cominciato a sentirmi grande e quindi a pormi il perché, cioè in piscina finta non ci sono più andata e ho cominciato, non andavo più a fare le novene alla Madonna, ho cominciato a maturare uno spirito critico, secondo me molto anche grazie agli insegnanti, perché quello fa molto. Io ebbi un insegnante che era comunista, una giovane che un po' era guardata male, ma era comunista questa, e questo era un po' lo scandalo. Cosa insegnava? Di lettere, e quindi, cioè, per dirti, in seconda media ci fece leggere Marco Aldo, e io mi ricordo, lo percepivo come un libro da grandi, ero molto orgogliosa di questa cosa. In prima media ci fece leggere Pinocchio. Marco Aldo, fra l'altro, era uscito nel 61, quindi era un libro quasi... Sì, quasi, sì, sì. Infatti è vero. Sì, era avanti. Ci fece leggere Pinocchio, ma mi ricordo ancora con la premessa dicendo: ma guardate che io non ve lo faccio leggere come bambini, perché Pinocchio ha due livelli di lettura, cioè in prima media uno che ti fa un discorso così, e io lo capii questo discorso, per cui se cominciare a sviluppare uno spirito critico, secondo me molto è stato anche merito di questo, cioè di essere nella sventura di essere finita parte dove c'era quelli un po' della classe più bassa, gente che poi si è persa, non ha mai finito le medie, gente che era quella che veniva dalle contrade che in prima elementare odiavo, ma a quel punto non odiavo più, ma anzi mi rendevo conto, cioè, di come la vita era ingiusta nei confronti di queste. E però fu scioccante in qualche maniera, perché quello che ero riuscita a costruire anche come piccole amicizie, no? Quelle con cui andarono tutte dall'altra parte. E io mi trovai, cioè, in questo nulla assoluto, con gente che non conoscevo, e tutte bambine socialmente disagiate, e neanche quella cosa da cui ero rifuggita, di dire no, tutti pettegolezzi, eccetera, no, neanche a quel livello lì, con cui proprio cazzo da dire. Nulla, cioè, queste non è che avessero il problema di dire dai chi è che corre più forte, ma che correre? Quella doveva correre a mungere le mucche, cioè che sta a fare le corse, a fare la fatica a correre con me che poi c'ho il bagno a casa. Cioè, proprio mi sono sentita che non ho più legato con nessuno, secondo me questo ha molto influito, cioè da un lato aver avuto comunque degli insegnanti, a parte questa, anche gli altri insegnanti, mi ricordo quello di matematica per esempio, era un ragazzino giovane siciliano arrivato a fare insegnante qua, che era uno di quelli che la mamma non poteva andarci a parlare perché non la capiva, però veniva da un altro, e io ero affascinata da quest'altro mondo, cioè non, perché ecco, non ho detto un episodio che era precedente, però anche perché a volte la Titi me lo dice che io sono razzista e credo che sia vero inconsapevolmente, ma perché poi in realtà io ero molto curiosa da chi veniva da fuori, ma mi ricordo questo episodio che non è uscito ora, di quando andavo da mia nonna, uno dei miei zii ha fatto il militare e poi ha anche fatto la firma in Marina, è stato per tanto tempo a Taranto. A Taranto si è trovata una fidanzata, evidentemente, o una storia, o vate la pesca, ma lui aveva una fidanzata su. Quando l'hanno trasferito alla Spezia, lui probabilmente si è fatto di nebbia con quella di Taranto, ma quella di Taranto credeva di essere l'unica fidanzata. E non lo trovava più, e si è preoccupata. Quindi sta povera ragazzina, ti sto parlando, poteva essere 62-63, si è preso un treno, in qualche maniera è partita da Taranto, da è sola. Riuscita ad arrivare da sola, è riuscita ad arrivare a Vicenza. A Vicenza è riuscita a trovare un cazzo di corriera, è riuscita ad arrivare a Trissine, da Trissine è riuscita ad arrivare a San Benedetto. Non so se con una macchina a noleggio, con autista, in qualche maniera si compare, io ero là, compare questa. Che cerca di questo, si chiama Franco, che cerca Franco, ma Franco era la Spezia, che l'avevano trasferito. Si mobilita tutto il paese, ovviamente, dicendo Dio questa chi è, e quindi questa qua mi ricordo che pioveva anche, piovicinava, e anch'io con gli altri bambini tutti a vedere questa rarità che è arrivata da Taranto, e tutto appunto, sai quelle cose sottovoce che poi i bambini non devono capire, ma insomma noi abbiamo capito che era una fidanzata che voleva portarsi via lo zio, questo abbiamo capito, che voleva venire a cercare lo zio, che ancora un po' era colpevolizzata lei. E quindi c'era una che andava da mia nonna, diceva no, sta attenta, non sta a farla entrare in casa, no, farla andare dentro, che dopo che tocca sposarla, perché una volta entra in casa, i meridionali che tocca sposarla, tutta una parte così, insomma, sta povera donna. cioè è rimasta isolata totalmente sotto, la misero sotto il Moraro, c'era sto Moraro che è una grossissima quercia, il Moraro. Pioveva anche, lei là sotto non si mosse mai. E insomma non so come non fu, dopo 2 o 3 ore arrivò la macchina, se la pigliò, se la portò via. Ma nel frattempo di tutte ne hanno dette. Cioè io ero basita, mi faceva una gran pena, ero basita. Cioè, e quello per me fu lo scontro con il razzismo. Vabbè, però il razzismo vedevi intorno, mi sembra, Sì, che soprattutto. vedevo intorno, ma non avevo neanche strumenti da leggerlo, cioè a me faceva solo pena, ma non riuscivo a dire sono razzisti. No, cioè, però guarda che a me mi sturbò, è una cosa che mi sono portata dentro, quello è il Veneto profondo, quello è il razzismo vero, proprio brutto, cattivo, cioè non ti fa pena sta ragazzina, questa qua era gente adulta, grande, sta ragazzina che si è venuta lì, poi l'avrà conosciuto mio zio, che ne aveva 2 anche su, quindi, cioè questa l'avrà pigliata per culo, questa cioè, non ha mollato l'osso, e vado a vedere, cioè giustamente, insomma, ha dimostrato di avere il coraggio delle sue azioni, una ragazzina che nel 63 piglia, cioè, vuol Tanta roba, sapere del sì. poi, penso alle donne che dalla Sicilia partivano e andavano a cos'è, la ragazza con la pistola per della Viti. Cioè, una così, cioè, che viaggio si sarà fatta, poraccia. E come l'ha fatta l'andata, se l'è fatta il ritorno, Cioè, quindi era degna di tutta l'ammirazione. E non ho sentito una voce, una, che dicesse, beh, ma in fondo chiediamo se deve andare accesso. Cioè, e io ero troppo piccola per essere io Certo. quella voce, avrò avuto 7 anni, 8, però ero abbastanza grande a ricordarmelo poi questa vicenda. E questo poi io dove ho reincontrato la gente che veniva dal sud, alle medie come Come insegnanti. insegnanti. E questo per me è stato molto utile proprio perché quando dico sono artista, è vero che lo sono, come faccio a non esserlo? Che sono cresciuta, cioè quella era la mia famiglia. Io in quel contesto sono cresciuta, l'ho subito anch'io quando sono andata al Quaro, ma era come se fosse naturale, no? Come era naturale che andavi nella piscina senza acqua, così era naturale che quello che veniva da fuori era guardato con sospetto che in fin dei conti è meglio stare fra di noi, che sappiamo come siamo. Quello che viene da fuori è sempre pericoloso. Guardati, può succederti ogni cosa, è sempre pericoloso. Questo era il messaggio con cui io sono cresciuta. Però poi una serie di cose me le ha fatto dubitare di questo, ma è vero che per me l'età delle medie è stata l'età in cui mi è crollato tutto, cioè ho smesso di vedere anche la bellezza. Quelli che i boschi, durante l'età delle elementari, per me era la bellezza, la scoperta, eccetera, hanno cominciato davvero a diventare rifugio. Cioè, il posto dove io avrei voluto andare e sotterrarmi lì, restare sempre lì e non tornare più. Non era più vado a scoprire e poi torno più forte di prima. Era, cioè io a volte partivo il pomeriggio e non sarei tornata mai, cioè, e progressivamente perdevo anche il piacere del bosco, cioè, mi facevo dei sogni di dire io ora mi scavo una buca, non mi faccio trovare più da nessuno, faccio come Superman e trovo un modo di vivere qua e faccio in modo che più nessuno mi trovi. Ma ti ricordi quando hai avvertito per la prima volta questa sensazione? Ma non c'è una volta, è stato progressivo nell'accorgermi cioè nel vedere la verità, Che cioè qual era la verità? che quello era razzismo, che le piscine non erano quella roba lì, che non era normale, non era giusto, cioè il senso di giustizia forse di più ha prevalso, cioè il dubbio, la doppia lettura del Pinocchio, no? Cioè questa cosa per me è stata molto stimolante, perché la doppia lettura di Pinocchio ha rappresentato la doppia lettura per me di quella cosa, così come in prima media quella riteneva, e lo eravamo, che noi fossimo in grado di leggere Pinocchio come bambino ribelle e che alla fine la società lo vuole normalizzare, e Pinocchio cerca in tutte le maniere di difendersi, alla fine non è che ce la faccia poi tanto perché diventa bambino, cioè diventa quello che gli altri vogliono, quell'essere burattino, cioè e capire che Pinocchio era più bello come burattino e che anch'io sarei stata più bella come burattino e che in realtà invece ero sempre stata una bambina, mi spingevano a quella bambina e quindi un voler essere, cioè era letto all'incontrario, capito? Mm-hmm. Quindi scoprire di come, cioè la normalizzazione che mi voleva, cioè non avrei mai saputo esprimerlo con queste parole, certo. Però quello che prima era scoperta del mondo a un certo punto cominciò a diventare difesa dal mondo, cioè capire che là fuori c'era poco di bello e che non mi piaceva. Poi si è anche innescato sicuramente il fatto che fossi lesbica, ma ma in cosa si concretizzava in quel momento? Tu vedevi l'ingiustizia, per esempio, rispetto a questi tuoi compagni e compagne della montagna? Ma anche di lei, in confronti. Mm. Cioè, la suora che ne so, che regolarmente nominava la caposquadra, quella che le pareva fosse più violenta per maltrattare le bambine piccole, no? Mm. Cioè, tutto. Io che ero finita... non essendo figlia del salmiere che dopo gli dà il salame buono al preside, ero finita non con i miei, ma nella scuola quell'altra, che poi per carità forse per me è stato meglio perché ho trovato un contesto che mi ha fatto riflettere, ma che mi ha anche fatto pagare un prezzo altissimo. Io credo che se in quel contesto, invece di finire in quella classe, io fossi finita in un'altra, quell'altra classe della scuola bella, la mia vita sarebbe stata diversa, non so se meglio o peggio, ma ci sono degli snodi dove delle casualità sono rilevanti nella storia delle persone, non necessariamente nella personalità, ma nella storia sì. Certo. Cioè, io alla fine sono quei 3 anni che mi hanno portato a buttarmi dal ponte, perché è vero sicuramente che c'era una componente che io poi capivo anche che ero lesbica, ma lo capivo esattamente come avevo capito che la bambina mi aveva rubato le palle, quindi le biglie da piccola, lo capivo esattamente come tutte quelle cose che non volevo dire, figurati se potevo dire quella, non ero in grado di dire che mi aveva rubato le biglie ed ero in grado di dire una cosa del genere, per cui mi sono... Ma nemmeno a te stessa? Nemmeno a me stessa, secondo me, cioè era una battaglia continua, no, non esisteva, dove leggevo che c'erano le lesbiche? Mi accontentavo di leggere che avevano scoperto Plutone, capito? Che era quasi fosse la stessa roba. E infatti ho sempre avuto questa sensazione in quell'età di essere nel posto sbagliato, di dire sono una che è finita su questa terra, ma per sbaglio, cioè il mio posto non è questo. E quindi alla fine l'idea del suicidio ha avuto questo percorso e non era quello per cui può essere poi stato letto quando tu hai 13 anni a attirare l'attenzione, ma sai, per attirare l'attenzione tu non ti butti da 15 metri. Cioè, quindi per me era proprio una scelta definitiva, neanche di morire, ma di andare in quel mondo che io sognavo esistere. E siccome tanto mi aveva raccontato tante balle tutti, perché non dovevo credere che magari questo mondo che io sognavo esistesse o non esistesse? Non lo so, capito? Che certo, e poi psicopatologia, né più né meno, io questo lo vedo ora, ma lo era anche quando ho ammazzato il gatto, lo era anche in tanti altri momenti in cui magari volevo le scarpe rosse che non esistevano. E quindi è un episodio che però ho maturato, cioè mi ricordo la cosa, il libro, io quando mi sono buttata dal ponte non avevo appena compiuto 13 anni. Perché è successo a dicembre, io l'avevo compiuto a novembre. Quell'estate, come libro di lettura, dato da quell'insegnante, perché poi quell'anno io non ho avuto lei, lessi i racconti di Chekhov e a me mi aveva flashato tantissimo il Monaco Nero. Credo che l'avrò letto 5 volte il Monaco Nero. E questo Monaco Nero doveva arrivare anche nella mia vita in qualche modo. Cioè, nell'arco di quei 3 anni ero passata dall'essere quella che faceva 2 volte i primi venerdì del mese all'essere una che leggeva Chekhov, che cercava anche di capirlo e che capiva cosa rappresentava per Chekhov quel monaco nero, che capiva che rappresentava la morte, cioè, ti capito? È chiaro che è un flash. Come puoi essere sana di mente? È un po' come un ragazzino maschio che in 3 mesi si trova a essere da 1,40 e lo vede a 1,70. È chiaro che non si riconosce più in quel corpo. A me è successo con la mente, che secondo me ha avuto per una serie di circostanze un'accelerazione troppo veloce, forse, che io non ho saputo gestire. Cioè, ero quella che 3 anni prima faceva i primi venerdì del mese, non ero una che viveva in un altro mondo o che era stata educata a leggere. Non ho mai letto, io ho iniziato a leggere medie e di fatti ho iniziato ad andarmene in italiano perché leggevo, ho imparato l'italiano, io prima non lo sapevo, non ho più avuto mamma cosa scrivo nel tema, sapevo cosa scrivere, cioè improvvisamente sono cambiata molto molto rapidamente e quello l'ho fatto in solitudine, cioè quello non avevo perso comunque quelle relazioni amicali che nel bene o nel male un po' avevo mantenuto, avevo avuto magari per andare a correre, che perse quelle sono rimasta con i miei monti. Cioè, sei rimasta? Con i miei monti, con i miei boschi, con l'andare lì, con nascondermi, con il crearmi sempre di più un mondo quasi kafkiano, se devo ora pensare. Kafka non l'avevo letto, avevo letto Cieco, però forse avessi letto Kafka era più simile, cioè, cioè questo castello mi diventava sempre più sconosciuto e sempre più lontano, no? Questo processo non finiva mai, era quello che mi stava accadendo. L'unica maniera per farlo finire era sto monaco nero che sarebbe arrivata a salvarmi. Ma per salvarmi dovevo morire, cioè, è chiaro che è una follia, però cioè, a 13 anni una follia simile in testa, se poi ci aggiungi che ero pure lesbica e che quello l'avevo intuito, perché poi in realtà io mi innamorai della professoressa che venne dopo a sostituire questa, che invece era una... Cioè, perché questa era andata via? Perché non c'è stata più, perché era supplente annuale, sì. Ha fatto la prima e la seconda, era supplente annuale probabilmente, era giovane, anche l'altra. Quindi stiamo parlando di quella che è arrivata in terza media. Esatto, che di fatto io del ponte mi sono buttata che ero in terza media dopo 2 o 3 mesi e secondo me quella è stata un po' la goccia, perché questa invece, a differenza dell'altra, che era una, cioè, che affascinava le bambine e anche me, ma era una forma di fascinazione normale, rivolta a un insegnante che aveva gli strumenti, che mi aveva dato molto, che mi aveva dato il Pinocchio alla rovescia, che mi aveva fatto leggere un libro da grande come Marco Aldo. Questa arrivò e ci faceva dire le poesie a memoria. Io mi ricordo questo. E io anche lì andai ulteriormente in cortocircuito, perché ho perso anche quell'unico contatto in qualche maniera. E siccome aveva sostituito lei a lettere, io lo cercavo in questa e probabilmente mi partì una forma di innamoramento che però non era sana come quell'altra, perché c'era del nulla. E di fatti a lei, per cercare di svegliare la cosa, le dissi che mi volevo ammazzare. Ma fu per vedere, reagirà in qualche modo o è proprio una rincoglionita questa? Lei come reagì? È andato da me. Dicesti a voce? Sì, no, glielo scrissi. Glielo scrissi sul biglietto durante il compito in classe. E che cosa hai scritto? Tipo che avevo già deciso, programmato, era vero, avevo già deciso come fare tutto, quel giorno in cui poi mi fai da ponte, l'avevo scritto, oggi ho deciso che la faccio finita. Ne avevo probabilmente già parlato a voce, ma così come ipotesi, e mi ricordo che gli ho dato questo foglietto col compito, cioè finì il compito molto in fretta e gli ho dato questo foglietto. Non c'era scritto perché? No, ma anche perché non lo sapevo, non avrei saputo cosa scrivere. Quindi le ho dato questo foglietto e io non ho capito, perché poi non pensavo avesse tutta questa rilevanza, nel senso che io comunque avevo deciso di farla finita. Lei se n'è andata. Dopo ho capito, lì non c'era il preside, in quella, perché era la sezione staccata, quella degli spiegati. Lei cosa ha fatto? Credo che sia andata dai bidelli, abbia chiamato il preside e ha detto di venire. Il preside è arrivato e mi ha mandata a chiamare e me lo sono trovato questo biglietto. che mi ha detto, ma qua mi ha detto che, ma no, ma non lo fare, ma cos'è questa roba, forse non stai bene, dai, magari chiamiamo i genitori. Se tanto avevo una speranza di non avere il coraggio, gliel'ho trovato. Ho detto, madonna, in che situazione di merda mi sono impilata. Io uscì da scuola e mi sono buttata al fondo. Che in tutto questo ti hanno lasciato uscire da sola. Certo. Mi hanno lasciato uscire da sola, ma non solo mi hanno lasciato uscire da sola, avevo appuntamento con il babbo perché era dall'altra parte del paese, a quel punto lui aveva già la macchina, lui lavorava vicino a dove ero a scuola io, e quindi io che mi ero già organizzata, mi doveva dare un passaggio, di solito mi pigliavo su in fondo alla stradina e io mi pigliavo come al solito e io gli ho detto che mi ero fatta male in piede e che sarei andata dal medico. A piedi, era di sabato, metti era mezzogiorno, il medico c'era fino alle 2 e quindi no, no, tu vai che io tanto mi fermo in paese dal medico perché c'ho male al piede. E lui è andato a casa. Io ho attraversato la strada e mi sono buttata dal ponte. Ci ho messo un altro quarto d'ora prima di farlo, però cioè, in realtà nessuno mi ha seguito, cioè i miei sono venuti a saperlo dopo. Infatti dopo il terrore era che denunciassero, poi quello era, ma figurati, non aveva strumenti, non aveva nulla, che cazzo cambiava? Cioè non cambiava nulla, che perché i primi giorni non fu facile, perché quello che mi ero fatto era stata una frattura molto brutta alla colonna vertebrale e non avevo sensibilità alle gambe, anche perché mi ero rotta tutte e due le caviglie, quindi non era neanche possibile verificarla, perché in genere per verificare se c'era sensibilità alle gambe tu lo vedi dalla pianta dei piedi, ma io avevo le caviglie gonfie così, quindi i piedi chiaramente non sentivano, ma non si sapeva, cioè ci hanno messo quasi 15 giorni prima di capire se, da quello, se, il midollo, se c'era stata fuoriuscita il midollo. Quindi, tra l'altro... Dove poi, t'avevano portato? Subito l'hanno portato all'ospedale Valdagno, tra l'altro anche lì, cioè, con un grossissimo rischio, perché sai com'era ai tempi, mica hanno chiamato l'ambulanza. È venuto a prendermi sotto un omino che era il pacchino della stazione, mi ha portato su a braccia, io ero svenuta quindi non me lo ricordo, io ho ripreso conoscenza quando mi avevano steso sul tavolo del bar, quindi figurati toccare uno in quelle condizioni, hanno deciso poi di portarmi all'ospedale Valdagno su una 600 di dietro piegata, mi ha portato così. Quando sono arrivata a Valdagno, subito non avevano capito, pensavano mi fosse fratturato il bacino, perché comunque mi avevano mossa, messa, papà. E quando hanno fatto la radiografia non c'era più una vertebra, era completamente sparita una vertebra. E infatti tuttora un moncone, che poi è dove poi si è fatta la curva, lì mi è venuto pure l'aneurisma. Quindi, cioè, in quel momento lì, poi il delirio di quegli anni, guarda, fra l'altro abbiamo trovato l'articolo sul giornale di Vicenza, non so dove l'ho tirato, sì. Cioè, l'ha trovato Titti, è riuscita a farselo mandare, l'ho messo da qualche parte, non ricordo dove. Cioè, a quel punto tutta Requaro mi conosceva, quindi la domenica avevo tutta la gente che veniva dentro la stanza, portava i bambini, a dire, ma tu la conosci lei? Addirittura. Cioè, per cui guarda, una roba allucinante, io che non ho dormito, credo, per almeno una settimana. Perché poi, fra l'altro, non riuscivano, cioè a Valdagno non mi potevano far niente e quindi hanno deciso di portarmi a Vicenza. Però ogni volta che programmava di portarmi a Vicenza mandava la febbre alta, allora non mi volevano muovere. Quindi me ne sono stata a Valdagno più di una settimana a fare un cazzo, finché non mi hanno portato a Vicenza, che poi è dove mi hanno operato le caviglie. Nel frattempo poi si è risolto anche il problema del risotto. Si è chiarito il problema della schiena, però in tutto ciò io ho avuto i carabinieri, cioè, la cui domanda era se qualcuno mi aveva detto di farlo, perché quello, quella fu l'indagine, e poi lo psichiatra, portarono lo psichiatra e al tempo... Dello psichiatra ne parliamo dopo, sì. Perché ora ho le notizie della Cavarocchi, però prima ti voglio fare una domanda, prima di lasciare questo argomento, cioè te... c'entrava o non c'entrava questo fatto che tu dicevi che forse eri innamorata della professoressa? Secondo me non era quello. Era sentirsi aliena? Sì, cioè c'entrava nel sentirmi aliena, perché anche quello non era previsto. Cioè quello secondo me fu un po' la goccia che fece traboccare il vaso. Oppure poteva essere che, perché mi ricordo che in prima media invece mi piaceva quella di disegno. Però secondo me quello... non lo vedo così marcato, perché ci sta a quell'età. Secondo me non necessariamente vuol dire che una è lesbica, eccetera, ci sta la fascinazione. Tanto beh, ma se... te non è che lo sapevi che ci sta a quell'età, cioè all'epoca che si... Cioè, a me sì, mi piaceva. E questa cosa mi faceva sentire ulteriormente aliena. Non credo che sia stato il motivo principale. Io, se devo dire che cosa, c'è stato un momento in cui ho avuto chiaro, sì, ora mi butto, cioè quel gesto di tendere le braccia e di spingermi, perché sono stata lì un bel po', e quindi io cercavo qualcosa di bruttissimo che mi aiutasse a dire no, non voglio vivere più. E quello a cui io pensai, ti dirò, fu quando venivo mandata dallo zio prete, quando venivo messa dallo zio prete a pulire le pentole, fu il terrore di questo futuro dove sarei stata una serva schiava perpetua dei preti. E per fare quel ragionamento, perché probabilmente io avevo intuito che a me non mi sarei sposata, non volevo stare un uomo a protezione, e quindi mi vidi quel futuro, ma era un ingarbuglio molto grosso. Ma se devo dire la cosa che mi ha pesato di più, in quel, che mi ha fatto dire no, voglio andare via, è stata quella, cioè che il mio futuro sarebbe stato di fare la sguattera per qualche prete stronzo, questo io pensavo. Però ti ripeto, questo è il ricordo di tanti anni dopo, di 60 anni dopo. Cioè, quindi penso che sia normale che i ricordi si costruiscono anche, certo, dopo. Non lo so, è proprio quello. Certo, poi ho molto sviluppato anche l'idea del peso dell'essere lesbica in questa mia decisione, perché mi sono resa conto che tanti altri facevano le stesse scelte per questo. Ma io mi ricordavo, però probabilmente altre volte me l'avevi raccontata questo episodio, che tu alla sua insegnante avevi dichiarato in qualche modo. Anch'io me lo raccontavo. Mi ricordavo una lettera in cui tu dichiaravi all'insegnante, più che una lettera in cui esprimevi il desiderio di... la volontà di suicidio. Credo, come mi ricordo, quella lì è l'unica lettera. Però poi io andavo sempre a trovarla, sempre, sono andata 2 o 3 volte il pomeriggio per dirle che io ero a disagio, che stavo male, che... però non, esplicitamente non gliel'ho mai detto. Difatti lei secondo me non lo capiva questo, cioè non... Cioè, probabilmente le facevo molta pena vedere sta ragazzina, bambina, quasi nel vuoto. Che poi io ci andassi perché ero consapevole invece che mi piaceva, e quindi cercavo di andare a parlare a lei, questo è vero. Ma che cosa, ma che poi fossi in grado di dichiararmi? No. Cioè, secondo me sì, probabilmente. Cioè, quindi andavo sempre lì, ma io nella lettera mi ricordo che quello scritto, perché probabilmente era l'unica maniera che avevo per farmi dare retta. Quindi, cioè, forzando su questo, pensavo che così mi voleva bene, cioè che così sentivo il suo affetto. Non era così lineare, quindi poi non lo so, perché ti ripeto, i ricordi cambiano anche nel tempo, quindi magari in certi momenti ricordi di più un aspetto, in altri più un altro. Io mi ricordo che andavo a trovarla perché ci andavo nell'altra scuola, perché là c'era la sala professori, e io ci passavo per andare a casa mia, perché l'assurdità era questa, che io per arrivare a casa mia dovevo fare 2 chilometri e dopo 1,5 chilometri c'era l'altra scuola, e dopo 500 metri ancora c'era casa mia, quindi figurati, avrei avuto la scuola a 500 metri e mi toccava fare 2 chilometri tutti i giorni. Per cui anche questa assurdità, cioè secondo me sono tanti elementi. Poi non lo so se magari quando te l'ho raccontato fosse un momento in cui magari sentivo di più quel tipo di... Anche l'interpretazione del tuo gesto. Sì, perché secondo me questo te lo dico ora, che anche sono molto fuori dal movimento, non me ne occupo più da tanto tempo, in particolare poi del movimento tipo associazionista, quello che ho fatto io, che poi è stato anche dare una risposta, cercare una risposta per ragazzini in quella situazione. È chiaro che io in quel periodo probabilmente valutavo molto di più questo aspetto, quella mia decisione, perché era l'aspetto che, da cui ero partita per fare delle cose per altri, e quindi in questo momento che sono più esterna, magari quello lo sottovaluto un po' di più rispetto ad altri momenti, e tendo a secondo me, a marcare di più l'aspetto della salute mentale, cioè a vedere anche quanto ero di fuori, allora e dopo, cioè forse perché sono 20 anni che sto bene, questo fa secondo me, perché sono 20 anni che non ho problemi come ho sempre avuto, fra l'altro, non è che... Andiamo. Tra 10 minuti arriva la Francesca. Allora andiamo, ci si mette. Però bisogna parlare con la Titti prima. Sì. Per sentire se vuoi cucinare lei o se cuciniamo noi, allora vai te. Sì.